mamma, sopravvissimo io, yeah. Oh mamma mamma, come se stivo io, yeah. Oh mamma mamma, come se stivo io, yeah. Balla balla balla balla balla con te lì, eh. Oh mamma mamma, sopravvissimo io, yeah. Oh mamma mamma, come se stivo io, yeah. Oh mamma mamma, sopravvissimo, oh, yeah, yeah. Balla, balla, balla, balla, balla con te lì, con te lì, cas, cas, cas, cao, cas, cas, cas, cao. Oh, mamma, mamma, sopravvissimo, oh, yeah, yeah. Oh, mamma, mamma, come se stiva, oh yeah, yeah. Oh mamma mamma, come se stiva, oh yeah, yeah. Bala bala bala bala bala con te lui.